Sì, Sara ha ragione. Al tavolo è molto più caro perché si paga il servizio. Because one pays for the service. Ora ascoltiamo cosa ordinano. Now let's hear what they order, which includes funghi porcini. Very good quality mushrooms. Prima di ascoltare il dialogo, ripeta le seguenti parole ed espressioni. Before listening to the dialogue, repeat the following words and phrases. La bruschetta. Le tagliatelle ai funghi porcini. La caprese. Mezzo litro di acqua minerale. Una birra alla spina. Una birra in bottiglia. You'll also hear the word media. Medium, the feminine form, in the following question about draft beer. Listen and repeat. Piccola, media o grande? And finally, an expression with the word bicchiere. Al bicchiere. By the glass. Listen and repeat. Al bicchiere. È ora di ascoltare il dialogo. Buongiorno. Vogliono ordinare? Sì. Sara, è pronta? Sì. Prendo una bruschetta. Una bruschetta. Oh, sì. Una bruschetta e un'insalata mista, per favore. Una bruschetta e un'insalata mista. E lei, signore? Per me una caprese e poi le tagliatelle ai funghi porcini. Benissimo. E da bere? Prendiamo del vino? No, preferisco una birra. Avete del vino al bicchiere? Certo. Un bicchiere di vino bianco per me e mezzo litro di acqua naturale. Molto bene. La birra, la spina o in bottiglia? The beer... Sì, ho capito. Alla spina, per favore. Alla spina. Piccola, media o grande? Media. Bene. Grazie.